Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Per lo sviluppo del porto di Trieste stanziati quasi 350 milioni di euro, oltre 200 contenuti in un decreto interministeriale. Finanzieranno il molo ottavo. 145 sono invece finanziati da PNRR per consolidare il molo settimo e per il polo logistico ungherese. Oggi esce dal carcere Salvatore Guadagno, che nel 2010 a Feletto Umberto uccise la moglie Carmela Cerillo, di 38 anni. I figli temono che voglia cremare i resti della madre e tenerseli con sé. A Sistiana, sulla spiaggia pubblica di Castelreggio, pulizia della plastica. Trieste invece ha raccontato le sue imprese da navigatore solitario, Sir Robin Knox Johnston. Sullo Zoncolan, festa e contest sugli sci con il campione Innerhofer, ospite di Promoturismo FVG. Delusione in casa udinese dopo la nona sconfitta in campionato. In C, la triestina gioca in trasferta a Vicenza alle 16, il match in diretta su Rai 2. Festeggiano invece le squadre femminili di basket in A2 e la Delser è in cima alla classifica. Buongiorno e buon pomeriggio da Maria Spezia e Nada Cioc. La logistica nel porto di Trieste sta per allargarsi, i progetti sono noti da tempo, dal molo ottavo al terminal ungherese, e sono stati presentati già al governo. L'esecutivo, con un decreto interministeriale, ha stanziato quindi 207 milioni di euro per sostenere la realizzazione del molo ottavo, che fa parte della piattaforma logistica in concessione alla partnership pubblico-privata HHLA. Il molo ottavo sarà una nuova banchina container che affiancherà l'attività container del molo settimo. La notizia del finanziamento interministeriale è stata comunicata alla conferenza Stato-Regioni. Il governo considera infatti lo sviluppo di crescita del porto di Trieste come gate portuale europeo. Accanto al decreto interministeriale per la costruzione del nuovo molo container sono stati sbloccati anche altri 145 milioni di euro del PNRR per il consolidamento della banchina del molo settimo e la costruzione della banchina del terminal ungherese. L'autorità portuale infatti ha assegnato la progettazione esecutiva delle opere incluse nei finanziamenti del PNRR. Oggi esce dal carcere Salvatore Guadagno, che nel 2010 a Feletto Umberto uccise la moglie Carmela Cerillo, di 38 anni. I due bambini della coppia, Anna Maria e Pasquale, 13 anni dopo quel fatto drammatico, sono ora due persone adulte. Pasquale, in particolare, teme che il padre possa chiedere la salma della madre per cremarla e tenerla con sé. Un anno e mezzo fa i due figli di Carmela avevano infatti deciso di dar seguito alle volontà della madre, che avrebbe voluto essere sepolta a Napoli con la sua famiglia, ma senza l'autorizzazione scritta da parte del padre, che sta per riconquistare la libertà in queste ore, non è possibile. Salvatore ha già risposto che vuole cremare i resti della moglie che ha ucciso e tenerli con sé. I fratelli Guadagno si sentono ora defraudati dell'ennesimo diritto. L'appello di Anna Maria e di Pasquale, in particolare, che ha anche pubblicato il libro intitolato Ovunque tu sia, sulla condizione degli orfani da femminicidio, è che si ponga a rimedio alle gravi lacune della legge che danno pochissimi diritti ai figli delle donne uccise per mano dei mariti. Parliamo di ambiente. A Sistiana, sulla spiaggia di Castelreggio, si è svolto un mare di plastica, i volontari in azione con l'edizione Il mare d'inverno. Le spiagge sono piene di rifiuti anche durante l'inverno, quando nessuno le frequenta per prendere il sole. È questo il messaggio che vogliono dare i responsabili dell'associazione ecologista Fare Verde del Friuli Venezia Giulia, che hanno organizzato per oggi una giornata di pulizia delle spiagge della baia di Sistiana. Sotto un sole spuntato all'improvviso, i volontari raccolgono frammenti di reti da pesca, grossi pezzi di polistirolo, cotton fioc, mozziconi di sigaretta e quelle microplastiche che finiscono per essere ingerite dai pesci e così arrivano anche sulle nostre tavole. Rifiuti che provengono dalle attività di pesca e dall'inquinamento dei corsi d'acqua che arrivano in mare e che quest'anno sono di più del solito a causa delle mareggiate autunnali che li hanno portati sulla battigia. I circa 100 volontari, tra cui molti ragazzi, arrivano dai dintorni ma anche da Cividale, Gorizia, Udine. Tra loro c'è anche un gruppo di alpini. Riempiono subito decine di sacchi che smaltiranno nella raccolta differenziata. Sistiana, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sir Robin Knox Johnston, per i velisti è un mito, è stato il primo navigatore a compiere la circumnavigazione del globo in solitaria e senza assistenza nel 1969 nella regata Golden Globe. Knox, che ha 69 anni, ha doppiato Capo Horn in solitaria per la terza volta, è stato ieri a Trieste protagonista di un incontro dove ha raccontato alcuni aneddoti della Round Britain Race e la sua partecipazione alla Whitbread del 1977. Non solo. A tutt'oggi ricordi molto nitidi delle sue imprese Robin Knox Johnston, britannico noto ovunque per essere stato il primo nel 1969 a circumnavigare il mondo in solitaria e senza interruzioni. Una prudezza che ha quasi replicato nel 2007 a 67 anni suonati in qualità di partecipante più anziano alla Velox 5 Ocean Race, regata in solitaria attorno al mondo divisa in tre tappe. Facile capire quanto le sue memorie attirino ancora oggi gli appassionati di vela che ieri a Trieste hanno affollato la sala Luttazzi in Porto Vecchio per ascoltare le sue avventure e chiedergli cosa ne pensi della navigazione del presente. Io navigavo attorno al mondo in una barca di legno 55 anni fa, senza materiali moderni, né satelliti, né sistemi di navigazione. Ora ci sono barche in fibra di carbonio, leggere, ben progettate, velocissime, in aggiunta a comunicazioni istantanee, ottime informazioni meteo e la navigazione con i foil, in cui tutto continua a evolversi in modo sempre più rapido. Credo che nei prossimi 10 anni vedremo grandi sviluppi. Quello presente è un momento emozionante per i velisti. For the next 10 years, for instance. E oggi è in calendario la grande festa dello sci sulle piste dello Zoncolan, innevate a meraviglia, con il campione del mondo di sci alpino Christoph Innerhofer, ospite di Promoturismo FVG, protagonista dello ski party che si è aperto alle 11 all'area Cubo, con tanto di DJ che proseguiranno con la musica fino alle 17. Siamo al meteo, nuvolosità variabile su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 13 gradi, Gorizia 12, Pordenone 11, Udine 9, Tolmezzo 4, Tarvisio 2, Piancavallo 1 grado e mezzo, Forni di Sopra 1 grado, Sappada 0 gradi, Sullussari meno 1 grado e 5 decimi, sullo Zoncolan meno 3 gradi, Lignano 11 gradi e 5 decimi, grado 11. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: fino al primo pomeriggio cielo in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti, dal pomeriggio sera probabile miglioramento. Siamo al calcio, delusione in casa udinese dopo l'ennesima sconfitta a Marassi, dove la squadra di Cioffi ha subito 2 gol. Per onestà ti dico, è stata la peggiore partita della mia gestione. L'Udinese a Marassi dura mezz'ora e poi spegne la luce della striscia delle 3 partite positive, perdendo con il Genoa come non succedeva da 13 sfide consecutive contro il Grifone rossoblù. Friulani subito in difficoltà per l'ammonizione a Giannetti che costringe Perez alla marcatura su Reteghi. La traversa di Lucca dopo 25 minuti ha l'effetto di accendere il Genoa, pericoloso con Vasquez e poi ancora vicino al gol con lo stesso messicano. La rete di Reteghi, bellissima, e poi quella di Bani aprono alla sconfitta, la nona in campionato. L'espulsione per doppia ammonizione di Christensen ad inizio ripresa scopre un Udinese fragile. E dopo il gol è come se si fosse spento la spina, ha staccato la spina, quindi paradossalmente è stato più coraggioso il secondo tempo in termini di gioco, anche di propositività che del primo. Un KO che tiene la squadra di Cioffi a portata della zona retrocessione, una costante, perché 3 punti di vantaggio continuano ad essere un margine sicuro soltanto perché chi sta dietro ai friulani continua a non fare punti e la sfida di sabato con la Salernitana continua ad essere uno scontro salvezza. Siamo consapevoli, c'è da fare punti, siamo consapevoli, c'è da vincere le partite, non starei tanto a guardare grandi o piccole, perché non è quella la chiave. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie C, difficile trasferta oggi per la Triestina sul campo del Vicenza alle 16, con diretta su Rai 2, la squadra di Mister Bordin, dopo le pesanti sconfitte delle 4 giornate precedenti, oggi dovrà fare a meno di D'Urso, ancora infortunato, fuori anche Redan e Agostino per motivi disciplinari. Basket femminile A2, vittoria della Delser in trasferta, che ha battuto la capolista Ponzano 50-53, prendendone il posto con 36 punti. punti in cima alla classifica, una partita molto nervosa, la migliore in campo anche delle friulane, Cacicci con 22 punti, 11 rimbalzi e un'altissima percentuale al tiro che ha di fatto trascinato la Delser alla vittoria. Prossimo turno sabato davanti al pubblico di casa contro Roseto, vittoria anche per Futurosa contro le vicentine 63-57 dopo una partita impegnativa che ha visto le triestine in affanno nel primo quarto, finite sotto di 9 punti, ma poi hanno recuperato. Le triestine sono quarte in classifica, sabato giocano in trasferta contro le seconde di Alpò. E basket a 2 maschile, Pallacanestro Trieste alle 18 e gioca in casa contro la Moncada Agrigento, un'occasione per consolidare la posizione in classifica e soprattutto riprendere fiducia in se stessi dopo le 4 sconfitte subite di seguito. Apudine tornerà in campo appena il 14 marzo contro l'US Roma e anche Cividale il 15 marzo contro i torinesi. Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Giampaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Da tutti noi l'augurio ancora di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.